una delle magie dell'arte, del fatto di essere artisti, è creare ponti fra tempi diversi e quindi mescolare in un piano reale, effettivo, di efficacia nel presente, tempi diversi, passati e forse anche futuri. Questi ponti determinano una diversa cronologia, che non è quella della sequenza normale che siamo abituati a considerare, dei minuti che si susseguono in modo diciamo omologo, uno dopo l'altro, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Questi ponti fanno sì che ciò che è stato fatto, che noi consideriamo fatto, participio passato del verbo fare, non è definitivamente stabilito come tale. Cambia, diventa altro. Nel momento in cui entra in connessione con significati, cose, persone, discorsi, concetti, che non appartenevano apparentemente al tempo in cui era stato fatto. E quindi una delle magie dell'arte è trasformare i participi passati in gerundi, è vivere al gerundio, considerando che ciò che è stato fatto invece si sta ancora facendo. E questo è per me una cosa straordinaria, che apre alla possibilità di uso tutto ciò che è nel nostro cosiddetto passato, che appunto non è passato ma si sta ancora facendo, e questo uso in fondo è la cifra, il dispositivo che costruisce la struttura di questa mostra. Gli oggetti che sono esposti, anche quelli più lontani nel tempo, sono grazie la mostra stessa, grazie all'incrocio con tutte le altre cose successive e grazie ovviamente al laboratorio che li sta, le 15, 16, 17, 18 persone con me che stanno rivisitando, rivedendo, rielaborando, ripensando, rifacendo tutto il gerundio, le cose che sono in mostra anche le più lontane, fa sì che appunto i tempi si mescolano. Questo mescolamento dei tempi per me è bellissimo, perché appunto è vitale, dà la sensazione di una vitalità che in fondo attraversa, sarà forse un modo per non sentirsi vecchi, comunque funziona. L'altra cosa che volevo dire è che sottolineo quello che ha già un po' detto Lorenzo, io mi sono veramente divertito in questi giorni, cioè è stato bellissimo fare questa mostra, non solo per motivi narcisistici di auto, di soddisfazione individuale, di riconoscimento del proprio lavoro, che ovviamente per un artista chiaramente è importante, ma proprio perché si è costruita con uno spirito gioioso e partecipato, del quale di cuore vorrei ringraziare lo staff del Mambo, tutti quelli che hanno lavorato a questa mostra, li ho visti a volte tutti insieme, quindi a volte facevo anche fatica a distinguere chi stava facendo cosa, però ho visto una squadra che ha lavorato in un modo veramente esemplare, e ovviamente i giovani artisti teorici, non tutti artisti, ma comunque anche questa è una distinzione che io tendo un po' sempre a mettere in discussione e a cercare di rompere, che stanno partecipando, che Lorenzo ha citato, e che stanno partecipando a questo laboratorio, che appunto durerà per tutta la mostra fino a gennaio. Infine, il rapporto fra arte e vita. Io, un po' per caso, e senza neanche sapere esattamente perché, mi sono fermato mentre stavo scrivendo questi testi, che ovviamente è una scrittura che ha occupato gli ultimi mesi, insomma, nei ritagli di tempo, perché come forse qualcuno di voi sa, faccio anche altro. Ho trovato questa citazione di Foucault e mi ha in qualche modo intrigato, e veramente quando ho deciso di metterla come esergo all'introduzione del libro, non è che avessi però così chiaro perché lo stavo facendo, poi l'ho capito dopo. Foucault dice: mi stupisce che nella nostra società l'arte sia diventata qualcosa che è in rapporto con gli oggetti e non con gli individui e con la vita, e anche che sia considerata un ambito specialistico fatto da esperti che si chiamano artisti. ma la vita di ciascun individuo non potrebbe essere un'opera d'arte? Perché una lampada o una casa sono oggetti d'arte e non la nostra vita? Allora, costruendo questa mostra sulla base del principio che ho esposto prima, del gerundio, in fondo mi sono reso conto che la costruzione è un tutt'uno, cioè questa cosa che sta al piano di sopra è un tutt'uno, cioè è una vita raccontata attraverso delle opere, ma è una vita che attraverso questa somma di cose, opere e non opere, anche perché chiaramente la cosa di Nicola Baglio non è un'opera d'arte, fino ad oggi, però diventa una porzione di un progetto artistico che è complessivo e che lo racchiude. Avevo fatto questo ragionamento, ho detto, ah ecco, ora ho capito tutto, invece no. Poi riguardando la mostra, e ritornando un po' artista, diciamo così, professionista, e in effetti funziona anche viceversa. Cioè, in effetti questa mostra è anche, scusate la presunzione, un modello di allestimento di una mostra normale. Cioè, un curatore, diciamo, professionista potrebbe dire, ah vedi che furbo Pietro Iusti, si è messo d'accordo con Fricandò, i cui elementi, i cui insomma arredi nella mostra sono fondamentali in questo senso, ha tirato fuori le sue cose da ragazzino, ma che ha fatto? Ha fatto una cornice per delle cose che sono comunque delle opere d'arte. E quindi no? Cioè, quindi alla fine poi tutto l'armamentario serve per costruire intorno alle opere fatte tra la fine degli anni 70 e l'altro ieri appunto una cornice, un arredo in un certo senso che è proprio un esempio di arredamento, di allestimento. Quindi questa reversibilità, non so se mi sono spiegato, ma insomma fra arte come diciamo possibilità di considerare il progetto nel suo insieme, un progetto artistico e quindi inclusivo di tutti gli oggetti, comprese le poltrone, i banchi di scuola della collezione che citava Lorenzo prima, come parte dell'opera, da una parte, dall'altra come invece un dispositivo un po' furbo per mettere in mostra in modo sorprendente, originale, magari anche divertente, delle cose che sono delle opere d'arte. C'è una reversibilità tra i due aspetti, che forse è proprio la reversibilità che mi interesserebbe dimostrare che esiste tra arte e vita, fra non solo tra, come dicevo prima, tempi diversi, ma anche fra queste due dimensioni che appartengono a tutti noi, nonostante che non tutti ne siano convinti. Grazie a tutti.